piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Mandate a cagare quel coronavirus! Ma vogliono tutti di coronavirus, attenzione! Tumori, cancri, infarti, nomi morto di coronavirus! E bruciate, e li bruciate, per quale motivo andate e li bruciate? Per quale motivo? A me se mi fate bruciare un parente mio, ma vi brucio voi tutti quanti! Questa è una signora in una piazzetta di Pinerolo che inscena la sua protesta. Si rivolta contro le forze dell'ordine che impediscono gli assembramenti, dice che lei è libera di andare a sedersi sulla panchina e chiacchierare con chi vuole. A un certo punto strappa la mascherina, la butta per terra, dice basta, questa è una dittatura, non ne posso più, voglio andare in giro, parlare, fare quello che voglio. E poi non provate a bruciare un mio parente, perché bruciate i morti? Se ci provate vi brucio io a voi. E qualcuno batte anche le mani. È chiaro che a nessuno fa piacere il lockdown. Lockdown è il confino, è lo stare chiusi dentro. È la condizione di sicurezza essenziale che in questo momento tutti riconosciamo, ma tutti, non noi, in tutto il mondo viene riconosciuta come la misura migliore, più efficace per evitare il contagio da coronavirus. Naturalmente questo disagio crea un terreno molto fertile a chi vuole cavalcare il disagio. Attenzione alla rivolta degli oppressi, dice Paolo Becchi, che è noto nel fronte delle persone che tendono a sdrammatizzare il problema coronavirus. Vedo ieri sera che Sgarbi citava Louis Montagnier. Che c'entra Sgarbi con un anziano riconosciuto covincitore di un premio Nobel per la ricerca sull'AIDS, ma ultimamente uno sparacazzate come pochi sul rapporto tra vaccini e autismo, sull'omeopatia e via dicendo, ma improvvisamente un certo fronte ideologico che io non, dal quale non tendo assolutamente, sul quale non tendo a esprimere giudizi, che posso variamente anche in maniera sommaria riferire come un fronte conservator clerical sovranista, tende a recuperare tutte le persone che a vario tipo, secondo varie discipline, tendono a cavalcare la narrazione che ci sia un grande e voluto e strumentale sistema di esagerazione del coronavirus, dei sintomi del coronavirus, degli effetti del coronavirus, per non so, schiavizzare le persone, gestire il potere, dare potere alle banche, dare il potere alle multinazionali, insomma, che ci sia un uso politico strumentale lievemente complottistico del coronavirus. Ora, non vuol dire che tutti pensano questo, ma ho visto trattare in luoghi autorevoli la tesi che i dati Istat sulle morti in Italia rispetto all'anno scorso vadano letti diversamente. In realtà è morta più gente l'anno scorso, dice qualcuno, e ci sono gruppi in rete che tendono ad avvalorare questa tesi. Ma sì, non è vero che muore la gente, noi vediamo filmati con magazzini pieni di bare, vediamo camion che trasportano di notte bare, e sappiamo e sanno benissimo le persone che vivono nelle zone più colpite dal coronavirus cosa significhi la gente che muore a grappoli. Però qualcuno dice che questo non è vero. Si prospetta già, è stato annunciato nei social, è stato ripreso anche da agenzie di stampa, poi non se ne è più parlato, evidentemente il fenomeno è già rientrato, una sorta di 25 aprile alternativo. Ora è chiaro che chi ha un pensiero in Italia di destra, neodestra, centrodestra, postdestra, non ha molto cara la data del 25 aprile, ma si è sempre addotto delle alternative di tipo politico al 25 aprile degli ultimi 2 anni, che ne so, è stato detto pensiamo all'autodifesa, l'anno scorso il ministro degli interni andò in Sicilia, pensiamo alla mafia, non pensiamo al 25 aprile, altro che liberazione e via dicendo. Quest'anno qualcuno ha proposto scendiamo in piazza con clacson, campanacci, bandiere italiane e riaffermiamo il nostro orgoglio nazionale. Basta con questa reclusione, basta con questo attentato alla libertà, il popolo è sovrano. Beh, su questa idea del popolo sovrano, su cui ci stanno abbastanza lavorando in tanti e non soltanto in Italia tanto tempo, improvvisamente si è declinato che il popolo sovrano deve decidere in questo momento, ci si occupa più del coronavirus, anche basta, ora di uscire, facciamo ripartire l'economia, come se non ci fosse in effetti un problema reale di salute. Vi faccio sentire altri contributi, così vi do modo di riflettere sul fronte. No, perché questo è abuso di potere, perché i nostri vescovi eccetera, io ho domandato anche al sindaco, noi siamo qui 2, 4, 6, 8, 10, 13 persone in un ambiente di 300 metri quadrati. Quindi non è scritto che non possiamo celebrare senza fedeli. La presenza di fedeli che sia naturalmente contenuta e non ci sia ressa. Noi non abbiamo ressa. Tutti hanno la loro mascherina. Io non tocco l'Eucaristia perché la metto con le pinze. Quindi. Allora, mi hanno appena fermato qua in piazza Turbigo, posto di blocco dei carabinieri. Oltretutto ho anche bevuto. Ho tirato fuori l'asso nella manica, ho abbassato il finestrino, mi ha detto dove sta andando e ho fatto così, guarda, sono appena tornato da un turno di lavoro di 20 ore in ospedale, sono un infermiere, mi hanno guardato e mi hanno detto, mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno detto vada, vada pure e grazie per quello che fa per questa nazione, lei è un grande. Sono due episodi che apparentemente non hanno un nesso, ma il nesso ve lo dico subito. Uno è Don Lino Viola, avete sentito questa mattina, l'ha parlato ampiamente il collega Milan, il parroco di Galignano, frazione di Soncino, provincia di Cremona. Tranquillamente Don Lino Viola diceva la messa. Secondo lui la diceva per pochi fedeli soltanto, in una chiesa molto ampia, ma sono intervenuti i carabinieri e hanno detto no, deve smettere, gli vogliono passare anche il sindaco, il prete, imperterrito ha continuato a dire messa, invocando una sorta di persecuzione, dice non capisco perché dovete impedirmi di dire la messa, do l'Eucaristia con le pinze, ora avrei voluto vederlo il prete che dà l'ostia con le pinze, ma perché un prete deve ribellarsi a quello che è una direttiva governativa che vale per tutto il paese, per la salute di tutti. Non è il solo, esiste tutto un fronte, figuriamoci, è stato impugnato, cavalcato da molte persone, non potete togliere il diritto di andare a messa alle persone, basta, esagerate. Dietro c'è tutto, credetemi, una sorta di discorso ideologico molto più ampio, come se oggi l'atto di coraggio, l'atto eroico fosse quello di ribellarsi a questa sorta di imperio che vorrebbe, per un calcolo, per una sorta di desiderio di egemonia politica, di controllo, di quello che voi potete pensare di più abietto, costringerci a stare dentro casa. Beh, tutto questo oggi vorrei analizzarlo, vorrei capirlo, perché non scendo a un piano di analisi scientifica, se abbia ragione Burioni o Montanari o Luc Montagnier, non mi importa, e trovo ridicolo sui social chi sta per l'uno o per l'altro semplicemente per un ordine di simpatia ideologica. Ma vorrei riflettere sul fatto che oggi su una circostanza così grave che interessa a tutti noi, come quella di un'epidemia percepibile attraverso le persone che muoiono, le persone che sono infettate, le situazioni di dolore, di sofferenza, di emergenza, di tutti i tipi, si tenda comunque a riportare nell'alveo politico, nella discussione politica, un tema così importante. E non è nemmeno ben definita l'area politica. Io ho detto, è chiaro perché vi guardate i programmi televisivi di matrice sovranista, questa è la vulgata costante comune, è tutta una cazzata, il virus l'hanno fatto i cinesi, è tutto un grande complotto, bisogna uscire, far ripartire l'economia, si esagera, basta, gli uccelli del malaugurio porta sfiga chi dice che staremo dentro ancora tanto tempo. Ma esiste poi anche un fronte abbastanza radical chic, prendo naturalmente il diritto di esprimere il mio parere rispetto a quello che è quello di altri colleghi, anche a me, anche le petizioni delle brave mammine che dicono date ai nostri bambini il diritto di avere un futuro, riapriamo le scuole, sì ho capito, ma aspettiamo un attimo, capiamo perché muore tanta gente, come muore tanta gente, quanto può essere pericoloso, capisco che i bravi bambini abbiano diritto di socializzare, giocare, frequentare la scuola, avere contatti, d'accordo, Ci sono generazioni di bambini che non hanno nemmeno saputo cos'era la scuola. L'abbiamo visti, l'abbiamo incontrati, l'abbiamo visti arrivare coi barconi. Ci sono state generazioni di bambini che sono stati chiusi dentro casa, nei campi di concentramento, nei luoghi di reclusione, che hanno vissuto paura, isolamento, povertà, sfruttamento e sono sopravvissuti. O se i nostri bambini se ne stanno un'altra settimana, un altro mesetto, senza fare il girotondo a scuola, o senza fare gli esercizi di yoga con la loro insegnante, magari ci sono altri problemi prioritari. Detto questo, voglio capire quanto l'ideologia in questo momento, e perché l'ideologia in questo momento, cavalchi anche questa situazione. Per farlo mi sono già, nella giornata di ieri, sentito e confrontato con una persona che voi conoscete, che è stato spesso nostro ospite, che secondo me ha gli strumenti per poter in qualche maniera dipanare questa matassa. Luigi Di Gregorio, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Luigi Di Gregorio, ricordate, ha scritto un libro interessante, Demopatia, sintomi, diagnosi e terapie del malessere democratico, e fa un'analisi molto originale di quella che è la situazione politica attuale, basata sull'elemento transeunte, in cui diciamo il pregiudizio, l'impressione, ciò che noi vogliamo prevarica ogni realtà oggettiva. Ricordo Luigi Gregorio, docente di comunicazione pubblica e politica e sfera digitale di web e social media per la Università della Tuscia, quindi di questo si occupa, di tutte le letture contemporanee della politica. Prima domanda, Luigi, sei d'accordo sul fatto che non esista più una realtà oggettiva, per quanto gli strumenti di oggettiva misurazione di quello che oggi l'epidemia coronavirus ci permettano di farlo, rispetto a questo fenomeno che sta attraversando il nostro paese, ma in generale tutto il mondo? Sì, forse la premessa che dovremmo fare è che l'umanità ha sempre diciamo vissuto realtà soggettive, mettiamola così, nel senso che l'interpretazione, il percepito domina e in qualche modo riplasma la realtà da sempre. Chiaramente noi siamo in un contesto già prima del coronavirus, ma tanto più adesso, che è un contesto in cui viviamo in una specie di bolla monotematica e in una specie di psicosi collettiva e di massa. Questo fa sì che appunto il percepito diventi davvero l'unico arbitro del reale, e quando questo avviene chiaramente la polverizzazione delle verità aumenta e la forza delle convinzioni, ma anche degli stati d'animo, perché noi spesso tendiamo a sottostimare il peso delle emozioni, dei sentimenti e degli stati d'animo quando poi andiamo a ragionare e a prendere decisioni razionali. In realtà la psicologia ha da anni dimostrato che c'è un forte legame. Entriamo nel concreto, Luigi, scusa se ti devo stringere. Vediamo nel nostro paese, come mai il maneggio politico del percepito in questo momento definisce degli schieramenti molto ben precisi? Non è che dobbiamo aver paura delle parole, sono considerazioni che facciamo su circostanze oggettive e reali. Come mai, diciamo, quella che in Italia è la destra che va dal sovranismo istituzionale rappresentato nel Parlamento alle frange più estreme, quelli che dicono il 25 aprile scendiamo in piazza, sono ultra, Forza Nuova, adesso non so bene, scendiamo in piazza in nome del popolo sovrano, perché chi in questo momento difende il popolo sovrano e viene definito con questo neologismo che ormai abbiamo condiviso tutti come sovranista, dice che esagerata, diciamo, la cautela di rimanere dentro casa, esagerata la percezione del coronavirus, e chi vuole tenerci dentro casa in realtà attenta alla nostra sovranità nazionale, e che il primato della scelta religiosa deve prevalere sulla necessità di stare a casa per sicurezza, ma soprattutto questo criterio della libertà individuale, il senso è attenzione che fra un po' non potrete più contenere il malessere popolare perché state creando uno strumento dispotico e li tenete dentro casa per forza. Ecco perché il lockdown è diventato il discrimine fra due solchi ideologici. Ma perché secondo me nella prima fase, quella che peraltro proprio il nostro governo ha chiamato fase 1, ha prevalso la straordinarietà dell'evento, l'aspetto sanitario. Ci si è affidati grosso modo anche nelle decisioni politiche di fatto agli esperti in medicina e per certi versi è sparito anche il rapporto, il confronto politico tra maggioranza e opposizione. Cioè non c'era però, terreno di scontro, potevano parlare soltanto gli esperti. No, praticamente no, e a un certo punto si è visto anche proprio nelle scelte di comunicazione degli stessi, che ne so, Salvini e Meloni, che hanno cambiato registro, hanno smesso come di sparare a pallettoni sul governo, c'è stata una specie di tregua sanitaria, mettiamola così. Però è chiaro che più si prolunga il lockdown, più aumentano ovviamente gli impazienti. Sì, perché diciamocelo chiaro, se vogliamo tradurlo in termini coloriti, sì. Il fighetto, la fighettaggine fra virgolette, di chi gestiva comunque l'emergenza è diventata inarrivabile per chi gestisce l'opposizione in questo momento. Cioè la figura di Conte, che poteva essere considerato uno statista improvvisato, imprestato da altre categorie, improvvisamente è diventato il centro di tutto, si è mosso a livello internazionale, ha messo in atto le misure di sicurezza, parlava tutti i giorni, cioè in tutte le maniere è prevalso su tutte le altre figure che avevano dei terreni in cui facilmente potevano attaccarlo, quindi è proprio un discorso politico, puramente politico. Peraltro questo non è avvenuto solo da noi, avviene ovunque, nel senso che ogni qualvolta il coronavirus è esploso in un paese, automaticamente è cresciuto il livello di gradimento dei leader in quella fase lì, perché avviene un fenomeno che gli americani chiamano rally around the flag, cioè appunto davanti al nemico ci si compatta verso colui che può difendersi dal nemico, e in quel caso appunto di solito il capo del governo, in alcuni casi anche il capo dello Stato. Però quando chi ha avuto la fortuna di governare nel momento della gestione della prima fase della crisi è diventato il leader indiscusso, perché ci si aggrega intorno a chi ha gli strumenti di difesa, quindi controllo delle forze armate e della sanità pubblica, di tutti gli strumenti che in qualche maniera ci salvano la vita. Esattamente. Però che succede? Che quando si prolunga il lockdown, ovviamente questo genera, peraltro è una cosa inedita, no? Nessuno l'aveva vissuto. Abbiamo visto come questo genera impazienza, disorientamento, insoddisfazione, tra un po' rabbia, per altri profili, peraltro appunto in primis quello economico. E quindi la fase 2 dà come dire, uno spazio di visibilità, di differenziazione, molto semplicemente di fare opposizione che prima non c'era. Per di più c'è la possibilità di guardare all'estero, e guardando all'estero ovviamente abbiamo visto paesi che possiamo ritenere più bravi o più fortunati, non lo so, che hanno avuto l'opportunità di non arrivare a un lockdown totale come noi, che hanno avuto l'opportunità probabilmente di ripartire prima di noi, e questo nel villaggio globale lo vedi H24, te lo propinano H24, e questo chiaramente aiuta chi vuole. Penso, per paradosso, lo stesso metro è per misurare l'eterna antagonismo fra nord e sud, o ripartiamo tutti o non riparte nessuno, ripartono prima loro, sono stati più bravi, noi dicevamo di essere bravi ma in realtà abbiamo fatto più casino. La stessa cosa avviene anche a livello nazionale, con polarità invertite, il sud diventa bravo, virtuoso, operoso perché ha contenuto il virus, il nord al contrario, dico nella vulgata, non dico poi nella realtà, contraddice tutta la sua efficienza perché in realtà non è stato efficiente, ci sono stati tanti morti. Esatto, e poi ovviamente questa è una classica analisi, come dire, che non ha il controfattuale, nel senso che noi non sappiamo come sarebbero andate le cose al contrario, no? Con un'esplosione di quel tipo di focolaio assoluto e viceversa. Però chiaramente non avendo il controfattuale ognuno va. Però capisci che è la social semplificazione che in questo momento va per lo più, e su cui però sta lavorando anche la politica, perché non è che soltanto i leoni da tastiera si confrontano su questo, il dibattito politico è proprio su questo, fra i governatori, fra gli organi dello Stato, se deve esserci una legge che vale per tutti o bisogna, diciamo, premiare il controllo virtuoso dell'epidemia. Allora ci fermiamo un istante, intanto finora abbiamo esposto il problema, dalla seconda parte in poi il pubblico è invitato caldamente a partecipare chiamando l'800240024. Voi come vi ponete? Voi pensate che di fronte a quello che vi viene detto ufficialmente, guardate che anche gli organi di comunicazione e di diffusione comunque delle notizie vengono messi sotto accusa, qualcuno dice attenzione, dobbiamo fare un controllo unico di tutta l'informazione, altri rivendicano la cosiddetta informazione alternativa, è un grosso problema. Voi pensate che il punto di vista, la propria visione della vita, il punto di vista ideologico, quello in cui abbiamo sempre creduto rispetto alla realtà politica, in questo momento influenza anche quella che è una realtà oggettiva? Ci fermiamo un istante. Siamo sull'orlo di una grande epidemia a livello planetario? Crediamo che alcune elite su questo pianeta potrebbero essere interessate ad una pandemia o perlomeno ad una grave crisi sanitaria in grado di creare un alto livello di panico tra la popolazione. Per raggiungere i propri obiettivi, l'epidemia dovrebbe essere controllata all'inizio, ma una sensazione di panico artificiale potrebbe essere generata esagerando negli effetti reali attraverso i media. Inoltre, l'elite potrebbe già avere il vaccino sin dall'inizio, tenendolo nascosto alla popolazione per ampliare il proprio margine commerciale. La logica di questa manovra è evidente. Più infezione, più panico, pertanto una maggiore richiesta di vaccino e più affari quando sarà lanciato sul mercato. Ed è per questo motivo che dobbiamo rimanere vigili ed evitare di essere manipolati. 800240024. Da adesso potete cominciare a chiamare. Questo è un video che sta girando molto in questi momenti, che ha una grande fortuna. È l'audio estratto dal libro di Dino Tinelli, Risveglio, e che è un audio che dovrebbe essere il 2014, preso dal canale Attivo TV, che in qualche maniera spiega che già tutto era previsto, già tutto c'era, già tutto era nell'aria, già tutto comunque in qualche maniera era scritto per controllare il mondo. Ecco, su questo, che è la punta più estrema naturalmente di questa lettura, di questa versione del fenomeno che stiamo vivendo, noi cerchiamo di definire quelle che sono poi le ricadute a vario livello. Non ve l'ho commentato prima, avete sentito la prima parte, il signore si vantava in un video di essere stato fermato dai carabinieri, aver detto sono un infermiere con la faccia patita, questi gli hanno fatto il saluto militare e l'hanno fatto andare, lui se ne vanta, è talmente scemo che se ne vanta, questo suo disprezzo rispetto all'allerta generale gli è costato che poi l'hanno rintracciato, l'hanno sanzionato. Allora cominciamo a sentire qualche ascoltatore. Il tema è questo: voi pensate che esista un'esagerazione, una lettura distorta, un racconto strumentale di quello che sta accadendo per motivi che ne so, che possono essere addotti alla politica, alla gestione del potere, al privilegiare alcuni potentati economici? Marco da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, penso che sia così, però al di là di questo si parlava anche di un microchip, no? Che vogliono controllare tutti i popoli inserendo il microchip. Questa è una cosa che non ci sta e chiaramente non ci stiamo, e quindi ci stiamo organizzando per andare verso Roma tranquillamente, però ci stiamo organizzando. Fatto, ma chi si sta organizzando? No, mi faccia capire, no, è importante Marco questa cosa. Lei ha tirato fuori questa storia del microchip, che è una storia di cui molto si è parlato, ma il microchip sì. Sarebbe stato dove? Inserito nelle persone o in altri posti? No, sottopelle, basta metterlo sottopelle in un punto dove ti fai fatica a toglierlo. Questo è già studiato. Ma come fanno a mettere il microchip materialmente? Materialmente per un'operazione, oppure ti impiantano un ago a una certa profondità e te lo inseriscono. Come fanno i cani, una cosa del genere. Ecco. Sì, l'ho visto fare cani. Ma come fa una persona a prendere Marco da Verona e mettergli il microchip? Se ne accorge lei se glielo mettono? Sì, difatti mi auguro che come il vaccino, okay, quando ci sarà, che si rifiutino tutti, perché il vaccino deve essere prima testato a lungo termine, intanto un vaccino, e non fatto dopo anche 6 mesi, okay, che è stato scoperto il vaccino. Non bisogna. Lei naturalmente questo lo sa perché... Scusi, no Marco, perché lei è un virologo, queste cose le ha studiate, quindi no, le può no, dire... No, io ho qualche amico medico, tutto lì, oh, intanto ci parliamo, ecco, tutto lì, vabbè. Ha capito. Vabbè, lei in questo momento ha detto che marcerete su Roma, chi andrà verso Roma? No, questo è interessante. Il popolo, scusa, uso la volgarità, il popolo si è rotto le palle del sistema, ma non tanto che si sta a casa rinchiusi. Questo potrebbe anche starci, ok? Perché c'è un virus e tutto quanto. Però basta andare in giro, dico io, con la mascherina e distanza, di cosa andiamo in cerca? Di tenere le fabbriche chiuse e di far fallire e far morire, sì, ma di no, Marco non mi ha risposto alla domanda, scusi, poi lei la lascio parlare, dice quello che pensano molti, quindi, ma sì. Lei ha detto andremo a Roma, chi andrà a Roma? In che giorno il andrete, popolo, a Roma? Il popolo, si è rotto le palle il popolo, del sistema politico, capisce? Ma scusi, ma il popolo, perché io non sono il popolo, anche io, non no, ho diritto lei, a essere lei adesso mi pido per il culo, il popolo si è rotto le palle del sistema politico, non potete mettere Prodi al governo, un Prodi oppure un Colao oppure Prodi. gente che già c'è stata e che ha rovinato il paese, capisce? E chi dovrebbe andare secondo lei? In questo momento, se lei avesse in mano il potere... È tutto da modificare, da cambiare, bisogna tra l'altro uscire dall'euro, perché non si può mica continuare con l'euro quando che stai meglio. Vabbè, fuori Marco, dall'euro, Marco, guardi, capisce? Ha sbagliato, no Marco, ha sbagliato, tutto un discorso, Marco, tutto un discorso, vabbè, senti, ha sbagliato fascia oraria, Marco, ha sbagliato fascia oraria. Abbiamo noi, grazie a Dio, un programma che dà ampio spazio a tutte le persone che vogliono esprimere liberamente i loro pareri, anche se lontani da una lettura razionale. L'ho fatta parlare perché però è sintomatico in questo momento. Se qualcuno dicesse a questo signore, guarda, io sono il politico, ti rappresenta, avrebbe il consenso di lui e tutte le persone come lui. Roberta da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. L'ascolto. Sì, no, da Pisa. Ah, da Pisa, mi scusi, da Pisa. Roberto, lei è Roberto da Pisa, vabbè, Roberta da Milano è un'altra. Parti Roberto da Pisa, uguale, va bene. Io l'ho sentita fare un'affermazione che mi ha fatto venire dritto. Sì. La libertà di informazione sarebbe un problema. Per ho qualcuno capito male? Ho capito male? No, ma l'ha detto lei. Sì, per qualcuno, ho detto, ma io espongo quello che è un sentire, dico, sì, per qualcuno sì, anche sì, la libertà di informazione sembra un problema, sì. Ma è un problema, quello ma non è per che, me problema. Quelli che lo dicono sono problemi. Sì, ma cosa vuol dire? Arrivi al punto, sta parlando, qua c'è tutta la libertà punto, che vuole. Arrivo al punto che la libertà di informazione è libertà, ognuno nei modi educati... E lei lo sta facendo, sì. Qual è il problema suo? No, ma siccome sentivo che poteva essere un problema anche chi la pensa diversamente da me o da lei o da chiunque. Ma per me non è stato un problema. Io amo, scusi Roberto, tutte. Ma Roberto, non è che vorrei perdere tempo, scusi, io amo argomentare, parlo con tutti argomento, ho un mio punto di vista che difendo perché è basato su alcune mie valutazioni. Non stavo riferendo a lei personalmente. Sulla sua trasmissione. Mi sto riferendo a persone che danno fiato in televisione, che quando sentono parlare persone che non la pensano come loro, o le vengono classificate come fecche, o ecco, vengono derise. Quello mi fa chiudere la vena del collo. Io di fronte alla persona che mi dice che i dati dell'Istat vanno letti diversamente, dico che è una cazzata, l'Istat stesso l'ha detto, posso dirlo, è mio diritto dirlo, poi che lo possa dire lui, lo può dire ai 420 e anche scriverlo sui muri, altrettanto ha diritto di dire altre persone che dice cazzate, molte persone oggi dicono cazzate e basano comunque una necessità, un desiderio di acquisire coscienza, dare sponda a persone, quella persona che ha parlato prima, che mette insieme il microchip, il controllo occulto, la gente che si è stufata e via dicendo, è chiaro che siano cazzate, è oggettivo, uno le può dire, ma è altrettanto lecito dire che siano cazzate. E Virgilio, provincia della Spezia. Sì, buongiorno. Sì. Grazie per la chiamata. Io sono dell'avviso che in realtà ci stanno manipolando, al di là dell'effettiva pandemia che c'è, ma il problema è molto semplice, a noi ci stanno prendendo in giro. L'istituzione, il governo si sta prendendo in giro. Perché chiudere tutto? Perché farci morire tutti nella stessa maniera? A me sembra personalmente che se facciamo le cose fatte bene come siamo capaci di fare, devono aprire gradualmente tutte le realtà. Da lunedì devono procurarsi i mezzi per difendersi, mascherine e guanti, devono farci lavorare. Vabbè, molto chiaro, Virgilio, è chiaro, ha espresso il suo parere, lei esprime quello che pensano molte persone. Roberta, da Milano, poi sentiamo. Sì, Roberta. Quello che ha detto il suo ospite, il percepito è il reale, è vero, purtroppo io sento persone che dicono appunto sui dati Istat che ci sono meno morti innanzitutto perché la gente non si muove, non ci sono incidenti stradali, incidenti aerei, meno omicidi. E quindi già un discorso assurdo, perché i morti per il coronavirus ci sono e come. E poi parlare anche di fase 1, fase 2, secondo me sta portando la gente a pensare, a percepire che il problema sia lasciato alle spalle, che non siamo più in emergenza pandemia, mentre invece non è assolutamente così. Infatti, da quando hanno cominciato a parlare della fase 2, a Milano si sono viste molte più persone in giro, la gente comincia a dire vabbè, ma è anche giusto uscire, poveri bambini, anche questa storia dei bambini che mi ha rotto veramente le scatole. Perché... E a chi lo dice? Io sono molto pressato per dar voce alle mammine pancine dei bambini poverini, non sono affatto d'accordo. Esatto, quando potevano portarli in giro li lasciavano rinchiodati in casa davanti ai loro cacchio di smartphone. Adesso invece che possono stare in casa incollati agli smartphone, hanno assolutamente bisogno di uscire, poverini. Vabbè, questi sono punti di vista. Comunque, grazie anche Roberta, è stato chiaro. Ritorniamo a Luigi Di Gregorio. Ecco Luigi, vedi, ho dato un attimo la stura, un secondo, io potevo diventare in questo momento un perfetto capopopolo se diceva a tutte queste persone sì, è vero, è giusto, basta, scendiamo in piazza tutti a Roma contro il governo, contro il potere, contro tutto. Ecco, in maniera più sottile, meno sommaria chiaramente, questo però parte della politica lo sta facendo. Sì, sì, ma perché appunto sì, la fase 2 riapre uno scenario di nuova ordinarietà, mettiamola così. Non ci sarà nulla di ordinario ovviamente finché non torneremo a come eravamo prima, però quantomeno riapre lo scenario di campagna permanente al quale appunto eravamo abituati prima. Quello scenario ha vissuto una parentesi, una bolla, appunto una fase di chiusura legata appunto alla fase 1, in cui praticamente la politica è sparita, nel senso che si è delegata la decisione, diciamo, alla scienza, diciamo perché purtroppo anche la scienza in questo momento è molto debole, perché se non avendo il vaccino, non avendo le terapie, l'unica soluzione è il distanziamento sociale, la quarantena, è una soluzione debole, indubbiamente. Però è chiaro che in quella fase si è sospesa. Se la scienza non ha mai dato però per il suo stesso sistema risposte immediate, è una cosa nuova, dice dateci tempi per studiarlo, che dobbiamo dirvi, se no sarebbe magia, capito? È scienza per questo, che richiede dei tempi, per forza. La scienza è un metodo, ha bisogno di tentativi ed errori, ha bisogno di tempi, ha bisogno di testare tutto per non fare danni ulteriori e soprattutto aggiungiamo una cosa importante pure per i nostri ascoltatori, ma ormai ce ne saranno accorti. La scienza non è un monolite univoco, nel senso che appunto anche gli scienziati sono umani e quindi di parte e quindi fallibili e quindi anche loro hanno le loro interpretazioni tra loro. Diciamo diverse. Che la cosa divertente in questo dibattito è la risumazione dagli ospizi della scienza, di tutti questi che sono millenni che non fanno più nulla, non fanno sperimentazione, non sono aggiornati, che presenti diventano i soloni. L'ha detto questo illustre scienziato, questo signore che, di cui non ricordavi nemmeno l'esistenza, che si pronuncia, dice tutto finirà, tutto passerà. L'altro giorno mi hanno mandato il video di un professore di filologia romanza, esperto in arpa celtica, che disquisiva di virologia, dicendo che naturalmente era tutta una grande manovra dei grandi potentati economici per narcotizzarci. E questo, che sembra una cosa paradossale, al limite della fantascienza, però ha un vasto pubblico. Non ci scordiamo qual è stato il maneggio politico che è stato fatto soltanto fino a un anno e mezzo fa di tutto il fronte Novax. Alla fine quasi venivano presi come interlocutori attendibili. Ci fermiamo ancora un istante. Promo 24. IG, broker leader nel trading online, ha il piacere di invitarti all'appuntamento dell'anno in live streaming con uno dei più grandi trader al mondo, Larry Williams. Partecipa online il 9 maggio dalle 10 alle 15. Collegati alla diretta video per scoprire le regole d'oro del trading e come gestire al meglio i rischi e le opportunità sui mercati finanziari. Registrati su IG.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fare trading comporta dei rischi. Lei consideri che noi abbiamo 20.000 morti l'anno di influenza, non ne parla nessuno di 20.000 morti. Lei pensi che abbiamo 49.000 morti l'anno? 49.000 morti l'anno per infezioni contratte in ospedale. Il dato è ufficiale. 49.000 persone, vuol dire da 130 a 140 persone tutti i giorni che muoiono perché in ospedale vengono ricoverate per farsi l'appendicite. Azioni che vengono fatte in questo momento, chi è stato sconfessato più volte, messo all'indice, questo mi sembra che sia Stefano Montanari, un nanopatologo Novax, che ritorna fuori sempre, in questo momento è il suo momento, si va a riprendere nelle frange estreme, fuori dal recinto della comunità scientifica, persone purché avvalorino quella che è la percezione, come diceva Luigi Gregori. La percezione sovrasta ogni realtà. Intanto io faccio i doverosi ringraziamenti a Andrea Roccabella, in regia Milano, Alessandro Marco Tulli in assistenza e Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti che mi permettono, lo ricordo, di andare in onda da casa mia in felice isolamento e distanziamento sociale. Ero al telefono con Luigi Di Gregorio, che è un professore di comunicazione pubblica, politica e sfera digitale, web e social media per la politica all'Università della Tuscia, ha scritto Demopatia, che è un libro proprio su quello che noi stiamo analizzando, è diciamo una prova su strada di quello che aveva profetizzato qualche mese prima Luigi Di Gregorio con Demopatia. Ecco Luigi, cosa ci vedi di quello che aveva scritto su Demopatia che non hai fatto in tempo a scrivere perché poi è arrivato il coronavirus? Quali sono le profezie che poi si sono fatalmente avverate, che tu avevi già in qualche maniera accennato in Demopatia, in questo momento, in questo particolare frangente che stiamo descrivendo? Diciamo sotto tanti aspetti si stanno rivelando un po' di conferme. Una, così ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto finora, c'è un paragrafo di Demopatia che si intitola Menti tribali, poi altro. Menti tribali vuol dire semplicemente che, e non è una scoperta mia in realtà, mi aggancio appunto alle scoperte di psicologia cognitiva, che noi in generale siamo molto gruppisti, cioè una volta che decidiamo di appartenere a un gruppo e di credere a qualcosa, poi diventiamo automaticamente dei tifosi di quel qualcosa. Come il tifo, quindi, calcistico, la fede tutta la vita, certo. E quindi il classico esempio del tifo calcistico è cosa ci dice? Che di fronte a un evento ambiguo, diciamo a un'interpretazione arbitrale ambigua, chiaramente noi prendiamo le parti della nostra squadra e gli altri prendono le parti dell'altra squadra. E non c'è, è l'arbitro cornuto, mica la nostra squadra che ha giocato male, chiaro, esatto. Certo. E non c'è modo di arrivare a una conclusione equa e razionale. Qual è il problema ulteriore? Questo si chiama pregiudizio di conferma in psicologia, cioè noi siamo convinti di partire dai fatti e arrivare a una conclusione razionale. In realtà facciamo il contrario, abbiamo già una nostra convinzione in testa e cerchiamo i fatti a conferma di quella convinzione. Questo è tipico in tutte le teorie di complotto, ma è tipico in tutto quello che facciamo noi nel quotidiano. Dovremmo sforzarci, e mi rendo conto che è uno sforzo, perché tutto quello che ho detto avviene inconsciamente, di cercare di fare quella che si chiama nella scienza la strategia del test negativo, cioè di pensare ogni tanto anche al contrario, di cercare prove contrarie. Quindi, che ne so, al primo ascoltatore di prima, Marco da Verona, quando dice un amico medico e quindi lo so, è ok, però prova a sentire anche gli altri milioni di medici nel mondo. E sarebbe come mio cugino, due mesi fa, l'amico medico, certo. Esatto. Come mio cugino, quindi, la stessa cosa. Quello è indubbiamente confermato, anzi è rafforzato dal fatto che siamo all'interno di una vera e propria psicosi globale. Questo chiaramente alimenta diciamo il terreno fertile per questo tipo di atteggiamenti. Ecco, ci sono dei punti però in comune. Scendiamo nel campo ormai bistrattato e indifferente dell'ideologia. In queste scese in piazza a sfidare il virus come se si sfidasse il piombo nemico, non c'è anche una sorta di matrice proprio arcaico, tribale, eroica? Dire, ma i vigliacchi stanno... Io l'ho visto, l'ho scritto da eminenti colleghi, persone che scrivono sui giornali, gli eroi sono quelli che escono di casa, sono quelli che dicono andiamo a messa piuttosto che stare a casa, basta di stare rinchiusi, anche la signora che straccia la mascherina e dice ho diritto di parlare con chi voglio. C'è una sorta di nuovo arditismo, di visione eroica della vita che prevale su una visione pantofolaia. Chi sta a casa è un pantofolaio, l'eroe è quello che esce, sfida i cannoni del coronavirus. Sì, sfida sia i cannoni del coronavirus che appunto il potere che ti dice di stare a casa, quindi diciamo si sommano l'eroismo alla ribellione, all'anticonformismo, ma questo avviene anche perché appunto in quel tipo di ragionamenti di cui parlavamo prima subentrano in qualche modo il viaggio dell'eroe, no? Cioè appunto noi ci raccontiamo in qualche modo, tendiamo a romanzare, a raccontarci la nostra vita come ci piace, in questo caso la nostra vita è praticamente rinchiusa in casa e quindi cerchiamo di ribellarsi a questa situazione con un... Cioè, manca un po' anche quella descrizione epica dei social, non abbiamo più cocktail da mostrare, spiagge da mostrare, discoteche, cioè alla fine facciamo sempre vedere i nostri piedi, la nostra panza, la nostra camera da letto, il nostro cucinino. Noi rappresentavamo la nostra vita meravigliosa attraverso Instagram, i social, facciamo grandi vacanze, avevamo prede sensuali bellissime, eravamo fighissimi, oggi facciamo tutti un po' schifo, senza barbiere, senza estetista, senza pallidi, sfatti. Io vedo gli ospiti televisivi, ho visto ieri Rampini collegato in televisione, ma sembrava già morto, poverino, ma anch'io probabilmente sembro già morto a chi mi vede nel video di Radio 24. Questo cambia un po' anche la nostra percezione eroica, è chiaro che gli eroi sono quelli che escono a questo punto. Sentiamo qualche telefonata, Antonio da Torino. Buongiorno, molto velocemente, io ho parlato con mia mamma così per chiedere della asiatica che è accaduta nel 1957, però secondo me anche quei tempi sono morti tantissime persone, però la vita, secondo me c'è una psicosi globale, cioè negli anni 57 non c'era tutta questa psicosa, si doveva stare chiusi dentro. Sì, ma c'era solo il telefono in una percentuale bassissima di case del 57, saranno stati il 5% di televisori nelle case e la gente sono morte più di 20.000 persone. Però quello che voglio dire è perché adesso, cioè, secondo me è una psicosi anche a livello politico, siamo tutti chiusi in casa come topi, ma non moriremo moriremo di coronavirus, ma moriremo di fame. Dai, questo di fame e di salute, perché poi la nostra salute si deprime, no? Se non sono sì, d'accordo. Sì, li mettiamo palliducci. Ma forse per la palliducci. Ma secondo lei, si poneva questo problema la famiglia di Anna Frank e dell'altra famiglia con cui divideva un tugurio di due stanze in cui stanno sigillati, per due anni sono stati sigillati, in cui dovevano stare fermi durante il giorno. E li aspettava il campo di sterminio, scusi. Ma quello lì era un campo di sterminio. Questa è una malattia e la natura non possiamo fermarla. A meno che allora se la natura non può fermarla, scusi, se lei gli prende un problema cardiaco non vada nemmeno all'ospedale, perché la natura ha detto che deve morire. Così esattamente, non ferma la natura. Ma tutti noi Claudio da Bologna, morire. Sì. Claudio da Bologna. Buongiorno, mi sente? Sì, l'ascolto. Semplicemente faccio riferimento a un articolo di Massimo Fini di qualche giorno fa sul Fatto Quotidiano, sì. Ma è una questione che circola sulla stampa in generale in rete. Sì. Si dice su questi documenti che circolano che ci siano intenzioni di far rimanere comunque noi anziani, ho 69 anni, quindi su un target ideale. Anche io sono anziano, io sarei fra quelli che devo rimanere a casa, non 65. Benissimo, di prolungare nei momenti in cui si allenteranno le restrizioni, che io condivido peraltro, di invece impedire a noi anziani di uscire per diversi mesi, quindi continuare le restrizioni in modo rigoroso per noi anziani. Questo, se è vero, non sarà accettabile. Io personalmente non l'accetterò. Non credo che sia attuabile. È un po' è la formula israeliana, ma in un altro contesto, in un'altra popolazione, in un'altra composizione della popolazione, in un altro approccio. Girava questa voce, ma in Italia non credo che sia attuabile, anche perché una percentuale altissima di persone che hanno in mano le redini economiche e politiche del paese dovrebbero starsene a casa. A me andrebbe anche bene alla fine, non sarebbe un problema. C'ho tutto quello che mi serve a casa, oddio, quasi tutto. Alla prossima, grazie Luigi Di Gregorio.